su voi da questa bellissima manifestazione importante. Io vi parlo per fare un appello, un invito a venire il 19 giugno ad Aviano con la manifestazione antimilitarista di fronte alla base di Aviano, a base USAF di Aviano, una delle più grandi d'Italia, dove partono gli aerei militari americani, dove ci sono le bombe nucleari, uno dei tanti mastodonti militaristi del nostro paese come quello di Camp Darby qui vicino a voi. È importante che le lotte sui territori, le lotte antimilitariste contro le basi militari, qui con Fremenza Giulia, come in Sardegna, come in Sicilia, si rafforzino, si radichino e si tra loro entrino in una rete solidale di mutuo appoggio, perché come ha detto Dario, il militarismo si batte, si inizia a battere nei territori dove nasce, con i poligoni, le basi militari, le industrie belliche. Ci sono tanti segnali importanti come il corso di oggi, che il movimento sta crescendo, e quindi grazie a tutti, invito il 19 giugno ad Aviano davanti alla base USAF. Grazie.